Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo dei dati sull'occupazione e sulla disoccupazione diffusi oggi. Vanno visti con molta attenzione, vanno anche scorporati, come si dice in gergo, perché i titoli in questo caso possono, la sintesi eccessiva può anche fare danni, nel senso che è ovvio che torna a crescere l'occupazione, torna a crescere la disoccupazione. Il dato è positivo perché l'occupazione dopo 4 mesi è tornata a crescere, però poi va raffrontato rispetto a un anno fa. E allora scopriamo che c'è stato sì un calo, un aumento dell'occupazione rispetto soprattutto al mese di maggio, ci siamo ancora 500.000 di posti di lavoro in meno rispetto a un anno prima, e questo è il primo elemento. Poi che aumenti anche la disoccupazione, mi sembra abbastanza chiaro, l'abbiamo spiegato molte volte, e cioè l'occupazione misura chi sta lavorando tra tutti quelli che potrebbero lavorare, e invece la disoccupazione misura chi non sta lavorando pur cercando lavoro. Cioè il dato della disoccupazione non tiene conto di chi il lavoro non lo sta cercando, perché è sfiduciato, perché ha fatto altre scelte di vita, perché ha fatto 2 calcoli, insomma non è alla ricerca di un posto di lavoro. Perché è chiaro che aumenta anche la disoccupazione? Perché quando c'è un aumento degli occupati e si ha la sensazione che il mercato del lavoro si stia riaprendo, tornano a aumentare anche quelli che cercano un lavoro. Quando invece la sfiducia è totale, la disoccupazione magari non si muove perché molte persone desistono all'idea di cercare un lavoro. E allora, dicevo, il tasso di disoccupazione è salito al 9,7%, nonostante, o meglio, in conseguenza anche di un'occupazione che è aumentata di 85.000 unità e quindi al 57,8 punti percentuali. Attenzione però, perché rispetto a luglio 2019 ci sono 556.000 unità lavorative in meno, e infatti l'occupazione è ancora sotto di 1,3 punti percentuali, cioè era sostanzialmente al 59,1% a luglio del 2019 e al 57,8% adesso. Sale anche la disoccupazione a livello giovanile, torna sopra il 30%. Tra l'altro, l'ultimo anno, se si vanno a scorporare i dati, si vede che c'è stata un'emorragia di dipendenti a termine, meno 498.000, e invece lavoratori indipendenti, cioè gli autonomi, meno 239.000. È ovvio che il calo degli occupati rispetto a un anno prima non riguarda i lavoratori a tempo indeterminato. Perché? Perché c'è il blocco dei licenziamenti, e tant'è che comunque sono cresciuti complessivamente di 181.000 unità. Anche qui bisogna appunto fare attenzione, perché il fatto che sia ancora blocco dei licenziamenti può falsare il dato, soprattutto nel settore privato. Mi dice un ascoltatore: non ho capito nulla, infatti cercheremo di spiegargli in maniera ancora più chiara. So che può sembrare un gioco di parole, ma occupazione e disoccupazione fotografano due situazioni completamente diverse. Comunque vi torneremo. Ancora, per quello che riguarda i dati di carattere macroeconomico, segnalo che oggi c'è un dato molto importante, anche se può sembrare tecnico, è il cosiddetto indice PMI, che non è l'indice della piccola e media impresa, ma è l'indice dei responsabili, di direttori degli acquisti. È un indice che spesso commentiamo perché si usa a livello europeo, internazionale, come indicatore anticipatore, cioè vai a chiedere ai responsabili degli acquisti dei principali gruppi che tipo di atteggiamento hai, se sei sfiduciato, se aumenta la fiducia, se hai intenzione di come vedi la prospettiva nel futuro, e questo ti dà da sempre una fotografia di come si potrebbe muovere l'economia. Questo indice è caratterizzato dal fatto che se è sopra i 50 punti segnala una espansione economica, se è sotto i 50 punti segnala l'inizio o di una stagnazione o, peggio, di una recessione economica. L'indice è salito in tutta Europa ed è salito sopra i 50 punti. La cosa importante, a mio avviso, è che è salito a livello europeo da 51,9 punti di luglio a 53 punti ad agosto, con una crescita che è la più alta dal febbraio 2018 nei principali paesi europei. Segnalo che sopra i 50 punti, visto che appunto questo è l'elemento che distingue tra crescita o recessione economica, sopra i 50 punti c'è sia la Germania 52,2 che l'Italia. L'Italia è quella che è a livello più alto di tutti i paesi, 53,1 punti, è il più alto da 26 mesi nel nostro paese. Poi segue l'Olanda 52,2, appunto come la Germania, sotto poi c'è l'Austria 51, la Spagna 49,9, la Francia 49,8, la Grecia 49,4. Per Spagna e Francia e anche Austria è il livello più basso da due mesi, quindi c'è soprattutto se guardate a livello comparato con gli altri paesi europei, il dato è positivo per l'Italia. Speriamo che venga poi consolidato anche dalle prossime rilevazioni, tant'è che il ministro Patuanelli ha detto il dato è sulla parte manifatturiera, perché l'indice PMI può essere fatto per la manifattura o per i servizi, in questo caso è l'indice dell'andamento manifatturiero. Siamo primi in Europa ed è il livello più alto per l'Italia da 26 mesi a questa parte. Speriamo appunto che sia di buon auspicio per l'andamento almeno del settore manifatturiero nei prossimi mesi, mentre sempre oggi c'è un dato che riguarda anche l'inflazione, che è prevista in tutta l'area euro in calo, meno 0,2%, denotando se non proprio una deflazione forte, quantomeno una non inflazione e in tutta l'area euro. Ieri abbiamo commentato anche i dati che riguardavano la parte italiana, tra l'altro sono calati molto le componenti energetiche. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Come sempre partiamo dall'aggiornamento delle borse. Che è un aggiornamento abbastanza così tranquillo, visto che le borse sono tutte invariate. Milano è meno 0,09, quindi invariata, Parigi meno 0,07, invariata, Francoforte più 0,1, invariata, Londra invece, che ieri era chiusa per festività, oggi perde l'1,90%, il Dow Jones più 0,30%. Tra i titoli segnalo Banca Generali più 3,30%, Banca Mediolanum più 3,14%, Campari più 2,30%, Nexi più 1,80%, Atlantia più 1,70%, ST Microelectronics più 1,5%, A2A più 1%, fronte opposto Biper meno 2,5%, Telecom meno 2%, Tenaris meno 1,80%, Fiat Chrysler meno 1,40%, Saipem meno 1,30%, UniCredit meno 1,1%, Pirelli meno 1%. Allora, le altre notizie in breve, partiamo come sempre da quelle di carattere internazionale. Per quello che riguarda qualcuno mi chiede anche dell'oro. L'oro sì, è sempre su livelli abbastanza alti, era 1972 dollari l'once, adesso vado a ricontrollare l'ultima quotazione. Per quello che dicevo riguarda il DL semplificazione di cui ieri ci siamo occupati, slitta l'arrivo in aula del DL semplificazioni, era previsto per oggi alle 16:30, ma la Commissione Affari Costituzionali e Lavori Pubblici e quella Lavori Pubblici non hanno ancora completato le votazioni sugli emendamenti, che sappiamo essere tantissimi, di cui buona parte dalla maggioranza, 1400 se non ricordo male, dalla maggioranza, e puntano le due commissioni a finire in nottata, ma potrebbe essere necessaria anche la giornata di domani. Restano aperti i nodi della rigenerazione urbana, dell'ammodernamento degli stadi e dell'ampliamento di infrastrutture come gli aeroporti. Comunque dovrebbero riprendere le votazioni in commissione intorno alle 18 stamattina, nelle sedute della mattina si è arrivati a votare, cioè analizzare e votare fino all'articolo 49, il testo complessivo di articoli però ne ha 65. Nel frattempo il governo pone la fiducia sul DL Covid, che è la conversione in legge dei provvedimenti del 30 luglio scorso, con questo esteso lo stato di emergenza. La votazione sarà domani, ma appunto il governo ha messo la fiducia e lo ha annunciato nell'aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Molti mi stanno scrivendo della scuola. Oggi, insomma, al di là dell'accordo raggiunto con le regioni, di cui molto vi hanno parlato i nostri GR, c'erano vari temi a partire dalla capienza massima, diciamo così, del trasporto pubblico, si è raggiunto l'accordo sull'80%. Faccio notare che oggi in Francia, che pure è attraversata da un numero altissimo di positivi, con un andamento molto simile a quello anche dell'Italia, cioè il numero è molto più alto, si è arrivati fino a 5.000 positivi al giorno, però non vi è pressione nelle strutture ospedaliere, né nelle terapie intensive né nei ricoveri in generale, però sfidando comunque i contagi in aumento, sono rientrati questa mattina a scuola 12 milioni e 400 mila studenti francesi, e il protocollo sanitario anche lì è stato molto discusso, molto, in alcuni casi contestato, in alcuni casi criticato perché contraddittorio, ma insomma le mascherine vi sono per tutti gli studenti dalla prima media in su e per tutti gli insegnanti e personale scolastico dalla materna al liceo, quindi per tutte le, per il personale scolastico e gli insegnanti le mascherine si portano a tutti i livelli, mentre per gli studenti solo dalla prima media in su. Non ci sono, il ministro dell'educazione Blanquer ha detto che tutto stava andando secondo quanto previsto. Non si escludono interruzioni della didattica o chiusura temporanea di classi o istituti per casi di contagio, per ora, stando alle notizie che abbiamo, non se ne sono registrate nel primo giorno di apertura. In Italia invece è iniziato oggi nuovo anno scolastico e ci sono state le prime riunioni per la pianificazione delle attività didattiche in attesa del ritorno a scuola degli studenti. Oggi hanno riaperto, come molti di voi sanno, anche le scuole, alcune le avevano anticipato, per il recupero degli apprendimenti. In alcuni casi viene fatto in presenza, in altri per il secondo grado a distanza, a seconda insomma della scelta fatta dalle singole scuole. E poi c'è stata la lettera del ministro Azzolina che ha detto: stiamo scrivendo una pagina di storia. Per carità, sono d'accordo che la situazione sia talmente nuova e talmente imprevista e imprevedibile da poter essere definita storica. Ecco, le pagine di storia, a me piace molto la storia, possono essere pagine positive o pagine negative. Speriamo che la pagina di storia che si sta scrivendo sia di quelle positive per gli studenti futuri di storia. E ricordo che invece da noi il CTS in una nota ha chiarito ieri che se viene rispettata la distanza di un metro non servono le mascherine, ancora nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissione analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di un metro, l'assenza di situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione, per esempio il canto, e in una situazione epidemiologica di bassa circolazione. Quindi sostanzialmente per gli studenti anche della scuola secondaria, se la distanza è rispettata, non c'è movimento, non ci sono attività come sono definite aerosolizzanti, cioè che creano appunto un effetto aerosol, appunto la lezione di canto, si può anche non avere la mascherina. L'accordo invece con le regioni appunto è di una capienza per il trasporto locale non oltre l'80%, e su questo è intervenuto il sindaco di Bari, nonché presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, mi riferisco chiaramente a Antonio De Caro, questa mattina Radio 24 con 24 Mattina con Simone Spezia, ha detto insomma l'80% dei passeggeri è stata una mediazione, ricorderete il braccio di ferro che si era creato anche ieri tra governo e regioni, comunque enti locali, anche i comuni, è stata una mediazione per non lasciare a terra nessuno. È una norma, che vuol dire e non vuol dire, nel senso che se si vuole rispettare il distanziamento bisogna stare a un metro e quindi la capacità di carico dei mezzi di trasporto si riduce notevolmente. Questo significa avere maggiori risorse perché aumentano le percorrenze chilometriche, c'è bisogno di più autobus, di più consumo di carburante, di un numero maggiore di autisti e ovviamente dal punto di vista economico non regge. Onestamente anche con risorse maggiori diventa difficile assicurare poi i mezzi di trasporto in più, perché un autobus in più, uno scuolabus in più non lo riesce a reperire nel giro di qualche giorno. Una mediazione tra il rispetto, tenendo conto che c'è l'obbligo della mascherina e che il viaggio soprattutto sul trasporto urbano, anche quello extraurbano e sugli scuolabus è un viaggio limitato nel tempo come minuti, utilizzare la mascherina obbligatoria, far areare diciamo il mezzo di trasporto aprendo i finestrini, comunque è un modo per ridurre notevolmente la possibilità del contagio e quindi si è scelta questa mediazione, l'obbligo della mascherina e magari andare in deroga al distanziamento di un metro perché il tempo di esposizione al potenziale contagio è ridotto. Si dà la possibilità a tutti di salire sul mezzo di trasporto, altrimenti rischiamo di lasciare a terra i bambini, gli studenti delle scuole superiori, dei licei, anche i pendolari. E devo dire che è soddisfatto anche il presidente dell'Associazione Trasporti Astra, Andrea Gibelli, che ha detto la percentuale dell'80% deriva anche da come si sta organizzando la società nelle città, lo smart working e la maggiore flessibilità al lavoro, aggiungo io, anche nell'ingresso a scuola, perché sappiamo che moltissime scuole hanno scelto per gli ingressi scaglionati, faranno sì che negli autobus e comunque nei mezzi di trasporto locale vi sarà meno gente. Nel senso che sappiamo che molti grandi gruppi stanno continuando con lo smart working a livello attuale, cioè l'80% in smart e più o meno il 20% in presenza fisica, le scuole saranno scaglionate e anche nel mondo del lavoro, unito allo smart working c'è maggiore flessibilità delle volte nell'orario. In tutto questo segnalo, anche se non è prettamente economica la notizia, però sapete che guardiamo sempre con attenzione a quello che fanno le regioni autonome, non solo la Sicilia, che ci ha dato sempre grandi spunti anche ieri e poi per la nostra classifica, ma anche altre regioni autonome. Questa volta sto parlando della provincia autonoma dell'Alto Adige. Perché lo dico? Perché nel DL Semplificazioni, quello appunto che è slittato quanto approdo in aula, c'è un passaggio proposto dalla senatrice del Südtirol Volkspartei Julia Unterberger, approvato al Senato dalle commissioni riunite la prima e l'ottava, in cui sostanzialmente si dice questo: per il territorio della provincia autonoma di Bolzano la conoscenza della lingua tedesca costituisce il requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. Cioè, tradotto vuol dire che per operare come medico nella provincia autonoma di Bolzano basta conoscere il tedesco, mentre prima insomma era obbligatorio essere bilingue. Ora, l'ordine dei medici giustamente si è incavolato, lo ha detto Filippo Anelli, presidente della federazione, ha detto: esprimiamo la nostra contrarietà, anche perché c'era stata una legge provinciale che andava nella stessa direzione ed era stata impugnata dal governo di fronte alla Corte Costituzionale. Come dire, ci avevano già provato la Südtirol Volkspartei. Ma io mi chiedo, proprio in un periodo di emergenza sanitaria come quello, ahimè, che stiamo vivendo, ma lo direi anche se non fossimo in un periodo di Covid, ma che senso ha? Cioè, che io come turista, e sappiamo che l'Alto Adige vive tantissimo anche di turisti italiani, a maggior ragione in questo periodo, ma in generale, possa rischiare di essere ricoverato in un ospedale a Bolzano e trovarmi di fronte un medico che non parla l'italiano, perché giustamente se passa questa cosa basta la conoscenza della lingua tedesca. Per cui facciamo questa ipotesi: se sono un turista che viene dalla Germania e ahimè devo essere ricoverato a Bolzano, so per certo che non avrò problemi. Se sono un milanese, un romano, un veronese, un napoletano, un palermitano, e sono lì, devo essere ricoverato a Bolzano, posso incontrare un medico che al di là della mascherina non parla neanche l'italiano, perché non è previsto, cioè, secondo l'emendamento. Io mi chiedo che senso abbia sta roba, se non ribadire ancora una volta la differenza. Sappiamo che la maggioranza linguistica è a lingua tedesca nell'Alto Adige, ma sappiamo anche che il confine di Stato non si ferma a Trento, ma neanche si ferma sulle Alpi, con buona pace di tutti, e Vipiteno, Sterzing, ancora Italia per esempio, e si ferma al Brennero il confine, il passaporto è passaporto italiano. Quindi il medico, anche nell'ospedale di Bolzano, di Merano, di Brunico, dove volete voi, fa la cortesia di sapere l'italiano. Io spero che questa cosa non passi, e non ho neanche capito come abbiano fatto a provarla in commissioni riunite prima e ottava, forse non se ne sono accorti. Poi ognuno faccia il commento che vuole su chi l'ha proposto, appunto la senatrice sul Tirol Volkspartei Giulia Unterberger. Già ho avuto modo di definire questo atteggiamento, ma senza offesa, ma non voglio essere offensivo con la senatrice, ci mancherebbe. Avevo risposto a un ascoltatore che continuava a dirmi che l'Alto Adige era sul Tirolo e non era italiano, gli avevo detto che era una testa di Schutzen, ma non voglio ripetere la stessa offesa alla senatrice, che in questo periodo non ha avuto altri emendamenti da portare che non il requisito, la lingua tedesca come requisito sufficiente per essere e operare come medico nella provincia autonoma di Bolzano Alto Adige. Vabbè, si fa per dire. Allora, dopo il metro e la pubblicità, andiamo ad ascoltare anche l'intervento di Gentiloni in quanto commissario europeo sull'utilizzo del recovery fund. Ha chiarito molto bene Gentiloni, attenzione, non si può neanche ipotizzare di usarlo per le ridurre le tasse, sono investimenti di carattere strutturale, non una tantum, e ha detto attenzione che l'anticipo del 10% potrebbe anche non arrivare, anzi non arriverà nel 2020, può essere considerato nella manovra ma non arriverà quest'anno. Comunque ascoltiamo le parole di Gentiloni dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora Gentiloni, vedo moltissimi messaggi al 349-238-6666 sulla parte, l'emendamento della senatrice Schutri o Volkspartein, adesso speriamo che venga corretto. Qualcuno mi dice, ma guardi che i termini medici sono tutti latini, quindi basterà parlare latino. Abbia pazienza, ma è che vado in ospedale, mi sembra un ragionamento un po' del rettus, se posso permettermi di usare un neologismo latino. Ma cosa vuol dire? Stiamo scherzando, siamo in Italia, vado in ospedale e esigo che il medico parli la lingua del paese in cui vivo, che è l'italiano. Poi esiste il bilinguismo, quindi il patois se vai in Val d'Aosta, il tedesco un po' spurio perché è un austriaco un po' spurio, quello dell'Alto Adige, e via così. Ma la lingua ufficiale in questo paese mi sembra ancora l'italiano, va bene? Poi alcuni lo parlano bene, altri male, ma è l'italiano. Poi c'è sempre il genio che mi dice, sì però mica chiediamo l'italiano agli immigrati che sbarcano, infatti però non gli chiediamo neanche di operare di operarla la prostata, capisce? Questo, visto che è un tema abbastanza attuale in questi giorni, la prostatite, dai. Allora, su Gentiloni dice l'Italia ha reagito bene al Covid, il clima resta molto incerto, è intervenuto il commissario europeo all'economia in audizione alla Commissione Unite Bilancio e Politiche dell'Unione Europea di Camera e Senato, gli hanno chiesto soprattutto del Recovery Fund. Però sentiamo Gentiloni sul clima e anche sul giudizio sull'Italia. Siamo di fronte a una certamente fase di rilancio delle nostre economie, ma caratterizzata appunto da un clima di incertezza. E anche l'Italia, che senza dubbio ha reagito bene all'emergenza sanitaria di questa primavera, è alle prese con questa incertezza, e lo sapete, nessuno lo sa meglio dei parlamentari della Repubblica. Il Next Generation EU è dunque lo strumento attraverso il quale provare a dare a questa incerta ripresa un ritmo, una forza e anche, devo dire, una direzione massima, perché non si tratta soltanto di tornare alla situazione precedente il più rapidamente possibile, ma si tratta di utilizzare questa drammatica crisi e le risorse messe a disposizione dalle istituzioni europee per riconvertire in qualche modo le nostre economie in una direzione di maggiore sostenibilità, di maggiore resilienza, di maggiore competitività. Allora, Gentiloni poi ha detto, tutti i paesi devono presentare a livello ufficiale i piani a inizio dell'anno prossimo. Però le bozze ci aspettiamo che arrivino per la metà di ottobre, ne parlavamo ieri con Gianni Trovati, perché devono consentire un confronto necessario. E poi è stato molto chiaro, ha detto, ogni paese può presentare, sono proposte dei 27 paesi, non saranno né redatti da Bruxelles né imposti da Bruxelles. Dopodiché la Commissione non è un intermediario finanziario per trasferire risorse a scatola chiusa, ma ha l'obbligo di verificare che i piani siano in linea con le priorità dell'Unione Europea. Ci mancherebbe, sono soldi comuni, questo mi sembra il minimo. E a questo proposito Gentiloni ha escluso che si possano usare i soldi del Recovery Fund per le tasse. Guai a pensare che usiamo 200 miliardi per ridurre le tasse, ma spiego perché. Perché la riduzione delle tasse è una tantum e andrebbe rifinanziata ogni anno, mentre l'Europa dice con quei soldi dovete utilizzarli per investimenti, riforme e investimenti di carattere strutturale, appunto le infrastrutture digitali e anche fisiche. Poi ha detto attenzione, l'anticipo del 10% delle risorse può arrivare anche un po' prima rispetto ai tempi canonici, ma certamente non ci sarà una trattativa per avere i quattrini nel 2020. Il 10% è come pagamento che avviene all'atto dell'approvazione dei piani nazionali, è una decisione positiva, però avviene all'atto dell'approvazione, non c'è trattativa. Quindi, è chiarito, dopo 2-3 mesi dalla presentazione formale del piano di recovery puoi ottenere il 10% del complesso. Ora, se i tempi sono chiari e formalmente lo devi presentare a inizio anno, questo vuol dire che tu puoi ragionevolmente immaginare che un 10% di anticipo ti possa essere dato a marzo, aprile, ma non prima, non sul 2020 come qualcuno aveva ipotizzato. Anche perché, chiarito Gentiloni, il governo nazionale presenta formalmente il piano e da quando i piani vengono presentati formalmente la Commissione ha 8 settimane per proporli al Consiglio, quindi sono un altro paio di mesi, che a sua volta ha 4 settimane per approvare a maggioranza dopo una discussione. E quindi da quando tu presenti il piano, poniamo che sia metà gennaio, se tutto va bene, auguri, a quando tu puoi anticipare, puoi ricevere l'anticipo del 10% di questi 200 miliardi, ammesso che tu voglia utilizzarli tutti, cioè sia la forma di prestito che la forma di sussidio a fondo perduto, passeranno 2-3 mesi, ecco perché dico marzo o aprile. Allora, i dati sul lavoro invece, altra notizia di carattere macroeconomico oggi in Italia. Chi continua a dirmi, guardi che lei si è sbagliato, l'emendamento vuol dire che basta il tedesco oltre l'italiano. No, dice che basta il tedesco e basta per fare il medico in Alto Adige. No, non al netto dell'italiano, sennò che notizia era. Andiamo sui dati sul lavoro, dati provvisori su occupati e disoccupati a luglio, e qui ripeto, la spiegazione può sembrare un po' tecnica, ma devo fare la premessa. L'occupazione fotografa chi lavora, ha fatto 100 il numero di persone che potenzialmente potrebbero lavorare. La disoccupazione fotografa chi non ha trovato un lavoro tra chi lo sta cercando. Qual è la differenza? Che tutti quelli che lavorano lo stanno cercando, e quindi perché appunto non hanno voglia, perché sono, le offerte non sono interessanti, perché sono completamente demoralizzati dal mercato del lavoro, perché hanno fatto un calcolo economico, un calcolo anche sulla loro scelte di vita privata. Tutti quelli che non lo stanno cercando e non stanno lavorando non rientrano nei disoccupati, vengono però fotografati dagli occupati perché non sono occupati. Ecco perché lo dico, perché il tasso di occupazione è salito al 57,8% rispetto al mese precedente, cioè luglio rispetto a giugno, sono 85.000 occupati in più. È salito anche il tasso di disoccupazione al 9,7%, come effetto del fatto che più persone si sono messe a cercare un lavoro, quindi risultano disoccupate quando non lo trovano. E anche questa potrebbe essere una buona notizia, perché vuol dire che c'è meno gente sfiduciata. La notizia non buona sicuramente è che se si prende il mese di luglio del 2020 e lo si confronta con il mese di luglio del 2019, mancano all'appello 556.000 unità, 556.000 posti di lavoro. Sale appunto il tasso di occupazione, ma mancano 556.000 unità, sale anche la disoccupazione al 9,7% e i giovani torna sopra il 30% la disoccupazione giovanile. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento da un lato Francesco Seghezzi, che è direttore della fondazione ADAPT, degli studi sul mercato del lavoro, fondata da Marco Biagi. Buonasera Seghezzi. Buonasera a lei. E grazie anche all'amministratore legato di Wiser, del DG Group, quindi uno dei grossi soggetti che si occupa, una volta li chiamavamo società private di collocamento, adesso sappiamo che hanno un ruolo ben più ampio nel incrociare domanda e offerta, grazie anche a Carlo Caporale, buonasera. Buonasera, grazie a lei. Seghezzi, partiamo dalla parte diciamo più di carattere economico, macroeconomico. Abbiamo visto che mancano ancora 556.000 unità rispetto a luglio del 2019 e poi che si sono persi rispetto all'ultimo anno 498.000 dipendenti a termine, meno 16% in un anno, e lavoratori indipendenti, meno 4,5, cioè gli autonomi, meno 4,5, 240.000. Invece i lavoratori permanenti sono anche aumentati dell'1,2% a 181.000, ecco perché poi il saldo complessivo fa 556.000 occupati in meno. Come si spiega intanto questo, cioè che aumentino di 181.000 i lavoratori dipendenti e invece calino così tanto i lavori a termine e gli autonomi? Poi le chiederò invece quanto impatta il blocco dei licenziamenti sui lavoratori a tempo indeterminato. Allora, sicuramente una parte della risposta richiamerà il tema del blocco dei licenziamenti, perché è evidente che i dati dipingono un forte dualismo tra tutto ciò che è a tempo indeterminato e quindi ha le tutele del blocco dei licenziamenti e tutto ciò che non lo è. Infatti io la spiegazione che do per il calo degli occupati a termine è chiaramente che la modalità migliore che le imprese hanno in questo momento dal lato lavoro per contenere i costi e quindi come esigenza nata dalla crisi, semplicemente non rinnovando contratti a termine in scadenza. Credo che un discorso simile valga anche per i lavoratori autonomi, penso soprattutto ai lavoratori autonomi in regime di monocommittenza, quelli che lavorano soltanto con un unico committente. Anche questi possono vedere il loro rapporto con questo committente venire a meno molto facilmente, non c'è nessun vincolo per non far venire a meno questo rapporto. Quindi diciamo che le imprese che hanno necessità oggi di ridurre i costi vanno a intervenire su tutto ciò che non prevede il blocco dei licenziamenti. Questo si traduce poi, secondo me, in un leggero aumento degli occupati a tempo indeterminato, perché sono quelli gli occupati a termine che a scadenza le imprese decidono di tenere perché hanno fatto su di loro determinati investimenti in termini di formazione. Quindi i 181.000 lavoratori a tempo indeterminato, le dice, in moltissimi casi sono trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, se mi hai capito, no? Sì, non escludo che, data la forte componente di aumento femminile di questo mese, sono 85.000 in più, 80.000 sono donne, non ci sia stato un aumento di domanda, soprattutto di servizio alla persona, data dal fatto che il lavoro in parte ha ripreso, ma le scuole erano chiuse, i centri estivi a luglio non c'erano, e quindi è nata una domanda, e qui vedremo, lo capiremo facilmente, perché quando scopriremo, se lo scopriremo, che questi lavori sono soprattutto part-time, potrebbe essere una dimostrazione di questa cosa, sapendo che part-time, anche se con un contratto a tempo indeterminato, lei dice, per cui lì vedremo anche cosa è venuto sul fronte badanti, colf, sappiamo che c'è stata anche una sanatoria che riguardava non solo loro, ci mancherebbe, ma lei dice può essere che siano lavori di servizio alla persona, e che, perché anche qui bisogna stare attenti, Seghezzi, che quando l'Istat dice sono aumentati di 181.000 i lavori permanenti a tempo indeterminato, non ci dice per quante ore, certo, e questo è il problema. Sono teste, cioè può essere che tu abbia lavori 4 ore al giorno con un contratto a tempo indeterminato e fai più uno. Certo che è diverso un più uno fatto di 4 ore al giorno rispetto a un più uno fatto di 8 ore al giorno. Quanto siamo sotto di ore lavorate? Abbiamo il dato su questo? Allora, c'è una leggera ripresa delle ore lavorate rispetto ai primi mesi del post-Covid. L'Istat dice che si sta riprendendo, ma specifica che non è ancora a livello di febbraio, anzi siamo molto lontani. Sì, perché poi quello è il livello a cui guardare, cioè le ore lavorate complessivamente. La seconda domanda che ho per lei, Seghezzi, è quanto pesa, diciamo così, il blocco dei licenziamenti, ma non tanto nel pubblico, dove sappiamo che è molto più difficile licenziare, quanto nel privato? Sicuramente pesa molto, perché se vediamo qual è stato l'impatto sui contratti a termine, quindi di quasi 500.000 di lavoratori, e sappiamo che i contratti a termine sono una quota molto piccola del lavoro dipendente, possiamo immaginare che nel momento in cui ci sarà lo sblocco dei licenziamenti, una quota di licenziamenti anche abbastanza importante avverrà. Faccio fatica a pensare che le imprese abbiano risolto i loro problemi lasciando a casa i lavoratori che avevano un contratto a termine, perché questo, anche se dovesse esservi una ripresa, questo per collegarmi all'indice delle responsabili di acquisto della manifattura, che è più alto in Europa, una crescita molto forte a 53 punti, questo lei se lo attende comunque, anche se vi dovesse essere un recupero economico deciso? Guardi, lei sa meglio di me come una parte di delle aziende italiane si è affacciata a questa crisi già in una situazione di grande difficoltà, trascinandosela dalla crisi precedente e forse anche da prima. Faccio fatica a pensare che non ci sia stato qualche colpo letale. Bisogna vedere qual è stata la portata di tutto questo, però io credo che qualche realtà che purtroppo fallirà ci sarà, e su questo il dato del PMI sicuramente è utile, ma secondo me non rappresenta tutto lo scenario. Sì, tra l'altro lei faceva bene a far notare che se si prende quello che è successo ai lavori a tempo determinato, non è ben augurante, 500.000 in meno rispetto a luglio del 2012. So anche quello che mi stanno scrivendo alcuni, che è più facile adesso, è l'unica soluzione, nel senso che i lavori a tempo determinato sono i licenziamenti sono bloccati, ma che in generale un'impresa tenda prima a interrompere il rapporto, diciamo, a termine, non rinnovare, che andare a licenziare il dipendente che lavora con lei da più anni e con un tempo determinato, è vero che quindi si scarichi sempre prima la parte sui certo. contratti più deboli, se mi passate questo termine, però da lì a immaginare che, come dice lei, tutto si sia già esaurito, la vedo dura. Vorrei rivolgere la stessa domanda anche al dottor Caporale, per capire che cosa vedete voi, che da sempre per lavoro mettete assieme le offerte di lavoro e le domande delle imprese, quindi i profili, andate a incrociarli. Poi le chiederò anche una cosa di commento sul reddito di cittadinanza, però insomma, qual è la fotografia che voi vedete? Anche perché voi non fate solo contratti a tempo determinato, ci mancherebbe, però spesso quello è il primo canale, o anche una collaborazione per poi avviare un rapporto più strutturato. Prego, Caporale. Quello sicuramente appunto è l'accesso, è la parte più voluminosa, diciamo, che noi trattiamo, poi c'è tutta la parte anche invece del contratto a tempo indeterminato, dei profili anche diciamo con competenze più elevate. Primo punto, sicuramente i dati che oggi andiamo ad analizzare, anche io li interpreto attraverso una fotografia di una situazione che è fortemente influenzata dal blocco dei licenziamenti e da un utilizzo elevatissimo della cassa integrazione, per cui in questo momento l'analisi, il ragionamento sul tasso di occupazione va mediato dal numero delle ore effettivamente lavorate. Aprile di quest'anno, ed è stata veramente la catastrofe, le ore effettivamente lavorate in Italia sono state inferiori all'agosto dell'anno precedente. Tradizionalmente agosto in Italia è un mese in cui praticamente non si lavora. Sicuramente appunto oggi abbiamo questa situazione per cui in qualche modo il mercato risulta parzialmente bloccato, per cui la impossibilità per le aziende di licenziare provoca immediatamente il crollo delle assunzioni, perché poi l'irrigidimento in uscita significa anche poi irrigidimento in entrata, e questo ci fa vedere un 43% in meno nel periodo gennaio-maggio di nuove assunzioni. Sicuramente l'altro tema che noi stiamo osservando è una situazione veramente molto a macchia di leopardo, per cui ci sono dei settori che addirittura risultano in incremento, no? Ad esempio il mondo della logistica, chiaramente anche certe professionalità legate alla sanità, al farmaceutico, ma anche alla grande distribuzione, e poi dei settori che inizialmente proprio per un problema di organizzazione del lavoro, quindi persone tappate in casa, e successivamente per un calo del business, oggi stanno subendo dal punto di vista occupazionale una situazione che sicuramente è difficile. Sicuramente poi gli effetti in parte saranno a breve, in parte sono d'accordo anche nel medio termine. Dall'altra parte aggiungo che però, siccome dei segnali, anche se timidi, di ripresa su alcuni fronti ci sono, è possibile che questa situazione che congela in parte certe dinamiche anche di uscita, poi possa essere parzialmente compensata o attutita, no? Da una ripresa indubbiamente rispetto appunto ai mesi peggiori del lockdown. Sì. Oggi vediamo alcune aziende che stanno ricominciando a immaginare. Però vedete, è il motivo per cui io non amo poi gli slogan, le frasi ad effetto, bene, risale l'occupazione, 85.000 occupati in più a luglio, oppure dramma, siamo a 500.000 in meno. Perché purtroppo il diavolo si nasconde nei dettagli, e i dati sul mercato del lavoro vanno analizzati nei dettagli. Ha fatto bene Seghezzi a ricordare che di questi 85.000 occupati in più, la stragrande maggioranza sono donne, 80.000. Ora, per essere molto realistici, il ragionamento che faceva Seghezzi, così rispondo anche ad alcuni ascoltatori, è: attenzione, potrebbe essere che proprio viste le esigenze che si sono venute a creare durante il lockdown, ma anche dopo il lockdown, scuole chiuse, situazioni non più gestibili, così questi 80.000 siano in buona parte lavori a tempo indeterminato, che sono infatti aumentati, legati ai servizi alla persona, che va benissimo, perché è sempre meglio lavorare 4 ore che non lavorare, ma A, appunto, non sono spesso lavori a tempo pieno, B, non stanno rappresentando un segnale di ripartenza dell'economia intesa come manifattura e servizi, ma di un'economia, chiamiamola così, ancora dovuta alle situazioni emergenziali che si sono venute a creare. Senta invece, Caporale, come commentiamo il dato su il reddito di cittadinanza? Perché al di là dei Navigator, che io sapete come la penso, sul reddito di cittadinanza abbiamo sempre detto in questo programma che era una cosa buona come operazione di welfare, cioè andava ad aumentare e rendere più efficace il tentativo già fatto dal precedente governo con il reddito di inclusione, che è una cosa di scarsissima efficacia e anche molto dispendiosa se bisognava utilizzarlo per trovare lavoro. Allora, l'ANPAL oggi ha diffuso i dati, poi dopo il GR glieli faccio commentare. Al primo settembre le famiglie che hanno ricevuto un sostegno economico grazie al reddito di cittadinanza erano 1.132.000, che corrispondono all'80% delle famiglie in povertà assoluta. E questa è una buona cosa, come diciamo da un anno e mezzo, a maggior ragione di fronte a una pandemia è un disastro economico come questo, avere comunque 1.130.000 famiglie in cui c'è un membro che riceve, almeno un membro che riceve un sostegno economico di welfare. Tra i membri adulti di queste famiglie vi sono 2.142.000, quindi più di un membro famiglia, quasi due a famiglia, che risultano beneficiari del reddito di cittadinanza. Di questi 2.148.219 italiani che beneficiano attualmente del reddito di cittadinanza, 1.099.000, cioè la metà secca, non sono in grado di lavorare e sono state inviate direttamente ai servizi sociali dei comuni per sottoscrivere il patto per l'inclusione sociale. Invece 1.048.000 sono tenute a recarsi al centro per l'impiego e sottoscrivere il patto per il lavoro. Oggi l'ANPAL ha detto che 196.000 di questi hanno sottoscritto un rapporto di lavoro e nello specifico ci sono 46.000 persone nel mese di luglio, e quindi ci sono 2.150.000 italiani che ricevono il reddito di cittadinanza, 1.048.000 che potrebbe lavorare, ha sottoscritto il patto per il lavoro, e dice, poi vi darò lo scorpo dei dati, 196.000 beneficiari sono ora al lavoro, non chiarisce però per quanto tempo e che tipo di qualità del lavoro. Dopo il GR24, il suo commento, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Risponderò anche al tema della lingua tedesca come unico requisito per fare medico in Alto Adige. Alcuni mi hanno scritto il motivo per cui nasce questo emendamento. Risponderò anche a questo. GR24. Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti. Ma no, presidente, no, proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi dal lunedì al venerdì. Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su, su. Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24. Tranquillo, Spezia, so che sei bravo. Provare, provare, provare, provare, provare, finché non riesci a dire si può fare. Vi racconterò i tentativi ed i successi di chi oggi in Italia ci ha provato e ci è riuscito. Si può fare. Ogni sabato e domenica alle 8:30 su Radio 24. Si può fare. Focus Economia. E 8 minuti. Dunque, chiedevo prima del GR24 un commento a questo punto, non sui dati occupazione e disoccupazione che abbiamo ampiamente esaminato, ma al dottor Caporale, amministratore delegato di Wiser di G-Group, e poi anche a Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT, sul dato di oggi diffuso dall'ANPAL, che ripeto chiarisce che al 1 di settembre c'erano 2.148.219 persone che beneficiavano in Italia del reddito di cittadinanza, pari a 1.132.737 famiglie, perché più o meno è quasi due a famiglia, quasi due a famiglia. Di questi la metà non sono in grado di lavorare e sono stati inviati direttamente ai servizi sociali dei comuni per la sottoscrizione del patto di inclusione sociale, 1.100.000. Questa è la parte del reddito di cittadinanza che personalmente a me ha sempre convinto, diciamo, piace per quello che possa valere, perché è un'operazione di welfare, cioè vai e intervieni su situazioni ormai incancrenite, cronicizzate, di povertà assoluta. Quello che non mi ha mai convinto è la parte del reddito di cittadinanza come politica attiva sul lavoro, cioè che permettesse non solo di dare una sussistenza, un minimo di dignità a chi è in condizioni di povertà assoluta, ma permettesse di trovare lavoro attraverso i 2000 navigator. E qui ci sono 1.048.000 persone tenute a recarsi al centro per l'impiego, Però il comunicato cita moltissimo i colloqui, 46.000 colloqui solo nel mese di luglio. Dice che complessivamente ci sono state 196.000 persone che hanno sottoscritto un rapporto di lavoro. Caporale. Allora, innanzitutto positivo sostegno a categorie deboli sul mercato, soprattutto in questa fase di criticità, no? Condivido il fatto che ci sono delle figure che per obsolescenza, diciamo, delle competenze che portano avanti o altre caratteristiche sono fuori dal mercato e quindi vanno supportate in altro modo. Devo dire, per me è sempre molto importante un approccio che sia un approccio attivo, cioè una politica attiva e non passiva, soprattutto per quelli che invece attraverso un'attività di reskilling, di formazione, di supporto alla relazione col mercato possono comunque intercettare delle esigenze che arrivano dal mercato. Questo tra l'altro è un tema che non è, come dire, legato alla situazione attuale, cioè su un mercato come quello di oggi, in cui rapidamente le competenze, non solo quelle tecnologiche, diventano vecchie o non più interessanti, è assolutamente fondamentale che, partendo dalle categorie più deboli, poco scolarizzate, eccetera, ma in generale su tutti gli ambiti, ci sia un intervento appunto su cui probabilmente in Italia siamo un po' indietro, cioè il tema delle politiche attive da noi è ancora, come dire, ancora molti aspetti da migliorare. Ci sono soldi e in parte anche idee, per cui secondo me si può fare un po' di più. Seghezzi? Intanto mi colpisce che siamo a 2 milioni, non so se ci ricordiamo che durante il periodo di grande comunicazione sul tema si parlava di 8 milioni di persone, poi di 5 milioni. Sì, tra l'altro sono 2 milioni che, dice l'ANPAL, corrispondono a 1.132.000 famiglie, cioè l'80% delle famiglie in povertà assoluta. Quindi diciamo che, come già si diceva in quel periodo, c'era un certo errore di prospettiva rispetto alla quantità di persone in queste condizioni. Ma al di là di questo, è chiaro che 46.000 colloqui a luglio, soprattutto in questa situazione, può sembrare un numero importante, sicuramente è un numero importante, però il problema non è tanto il numero di colloqui, secondo me, ma è la qualità di questi colloqui e la differenza da come uno entra in questo colloquio e quello con cui esce quando finisce il colloquio, quindi con in mano qualcosa, con una prospettiva, con anche soltanto una profilazione delle proprie competenze, di quello che è in grado di fare, di quello che sta per cercare. Io non credo che nella situazione attuale i centri per l'impiego siano in grado di fare tutto questo. Questo è stato ampiamente documentato da analisi anche dello stesso ANPAL sulla qualità e i servizi offerti dal centro per l'impiego. L'idea semplicemente di far andare tante persone all'interno dei centri per l'impiego per fare colloqui non è, a mio parere, una dimostrazione di qualità né di successo. Se noi abbiamo un ristorante che ha finito le scorte alimentari, gli facciamo entrare tantissime persone, ecco, credo ne usciranno deluse perché ne escono a pancia vuota. Sì, chiaro. Poi adesso bisogna capire appunto perché dice Mimmo Parisi, presidente dell'ANPAL, di cui ci siamo occupati anche per altri motivi in questi mesi, sulla base delle specifiche direttive regionali, Navigator hanno direttamente seguito 144.000 piani personalizzati di accompagnamento al lavoro, di cui 17.500 nel mese di luglio. Sì, non ci dice, però ha ragione lei, Seghezzi, la qualità di questi dell'esito di questi colloqui, cioè che tipo di rapporto di lavoro è stato instaurato. E quindi torniamo al tema, anche, e così chiudo da dove eravamo partiti, del dato di oggi sull'occupazione e disoccupazione, perché anche l'aumento degli occupati non ci dice la qualità di questi lavori, cioè sì a tempo indeterminato ma per quante ore, part time o a tempo pieno. E molti mi stanno scrivendo: guardate che si sta scaricando la regolarizzazione delle badanti, delle colf in questo dato, e quanto in parte aveva anticipato anche Seghezzi, ma guardando alla componente molto alta, 80.000 su 85.000 di lavoratrici femminili a tempo indeterminato, cioè stabilizzate nel lavoro. Grazie a ambedue, grazie quindi a Francesco Seghezzi e a Carlo Caporale. Vedo moltissimi messaggi ancora su una notizia che era, insomma, così laterale rispetto ai temi di economia, quella dell'emendamento passato durante il DL Semplificazioni in commissione sul requisito della conoscenza della sola lingua tedesca per poter essere medico in Alto Adige. Molti mi hanno scritto: guardate che l'emendamento nasce dalla difficoltà del reperire personale medico in Alto Adige, visto che è obbligatorio il bilinguismo, ci sono pochi o un numero non sufficiente di medici italiani che sanno correttamente il tedesco, che sono bilingue. Per carità, però bastava scrivere che allora, i medici li puoi prendere anche a Innsbruck in Austria se vogliono trasferirsi, ma non è che siccome pochi italiani o un numero non sufficiente di medici italiani conoscono il tedesco che tu puoi dire che basta conoscere il tedesco, perché il taccone è il peso del buso, non so come si dica in tedesco, ma forse si capisce, nel senso che io devo avere la garanzia che quando vado in un ospedale della Repubblica Italiana il medico che mi cura capisca l'italiano, con accento dialettale o no, poco importante, ma che capisca l'italiano. Si vuole obbligare comunque, cioè si vuole andare a reperire medici in altri paesi? Benissimo, gli si chieda di sapere italiano, anche se vieni dall'Austria o se vieni dalla Germania. E così come si chiede all'italiano di sapere tedesco, ma non si può inventarsi questa castroneria totale, e spero che si metta mano in fase di commissione. Adesso però noi ci occupiamo di un tema che piacerà moltissimo agli ascoltatori, perché immagino che quando parlo di cartelle esattoriali sospese tutti siano così felici del tema che andiamo ad affrontare. Allora, allo stato dell'arte le cartelle esattoriali sono sospese fino al 15 ottobre, sono 8.900.000 cartelle, il 90% degli atti è per importi sotto i 5.000 euro e addirittura il 73% del totale è sotto i 1.000 euro, il 36% di queste 9 milioni di cartelle sono tasse non pagate, poi c'è un altro 18% che si riferisce a sanzioni per violazione del codice della strada o a tributi locali. Tasse locali, IMU, TARSI, quant'altro. Allora, da un lato c'è un tema di entrate fiscali per lo Stato, perché lo slittamento della riscossione dall'1 settembre al 15 ottobre sarebbe costato circa 66 milioni di euro sul 2020 e 100 come saldo netto da rifinanziare e 165 milioni in termini di indebitamento netto. C'è una richiesta che arriva dai partiti, in primo luogo anche la Lega, ma anche le associazioni di categoria, di avere un rinvio bis, se ho ben capito, che raddoppierebbe comunque l'indebitamento netto, ce lo porterebbe a altri in totale a 315 milioni. Vorrei capire su cosa si stia ragionando, lo chiedo a Giovanni Parente, visto che oggi sulle 24 ore in prima pagina dava ampio spazio alla notizia. Giovanni Parente, buonasera. Buonasera a voi. Ecco, si sta ragionando per un rinvio bis, la faccio secca così ci capiamo subito. Ma... e poi vediamo di capire invece le altre possibilità. Sì, è una delle ipotesi che circola, una delle ipotesi su cui soprattutto a livello parlamentare bisogna restare molto attenti, perché c'è sicuramente un pressing delle forze politiche del centrodestra, ma poi è possibile che si trovi anche un accordo un po' più largo all'interno della maggioranza per spostare ulteriormente questo termine. Ricordo, è una sospensione che arriva dal periodo di lockdown, era stata prima portata la sospensione al 31 maggio, poi spostata al 31 agosto, alla fine da ultimo il decreto agosto l'ha spostata al 15 ottobre. Ed è una sospensione che opera, diciamo, almeno su due livelli. Quella di cui abbiamo parlato oggi sul Sole 24 Ore è la mancata notifica di nuove cartelle, cioè cartelle che devono essere recapitate ai contribuenti per contestazioni per cui gli enti creditori, agenzie delle entrate, ma anche i comuni o anche altri enti creditori chiedono alla riscossione appunto di passare all'incasso, la dico così un po' più... No, va bene. E l'altro lato riguarda invece la sospensione dei versamenti, che anche in questo caso ha una sospensione che appunto è stata portata al 15 ottobre, ma con la ripresa dei versamenti che dovranno essere effettuati poi entro il 30 novembre. Poi c'è un ulteriore capitolo che riguarda le rottamazioni, per cui invece la scadenza è a 10 dicembre. Quindi all'interno di questo pacchetto bisognerà ragionare, perché tu hai esattamente indicato le cifre della mancata notifica delle cartelle, poi c'è sicuramente un risvolto che è legato al fatto che quest'anno di fatto per la riscossione ci sia un mancato introito che è appunto è condizionato ai mancati versamenti, anche se diciamo che da quello che sappiamo è che comunque insomma ben oltre il 50% dei piani di chi stava versando già a gennaio-febbraio, quindi prima del lockdown, ha continuato a versare, perché è evidente che poi c'è la consapevolezza che se si ha un debito poi bisogna onorarlo, e anche per evitare insomma in qualche modo le azioni più severe dai fermi dei veicoli ai pignoramenti, insomma in qualche modo chi ha la liquidità sta cercando comunque di andare avanti, anche perché poi dover pagare tutti in una sola soluzione entro il 30 novembre non è affatto semplice, con tante altre scadenze fiscali che incombono. Allora, sì, fai bene a far notare che in realtà c'è tutto un insieme di contribuenti che dovevano al fisco, che erano appunto in deficit, diciamo così, col fisco, che hanno continuato a pagare. Allora, da un lato c'è il tema delle entrate fiscali, e vabbè. Dall'altro, che c'è, perché insomma, dall'altro però, Massimiliano, non vorrei che si creasse quello che è un po' il timore del mondo delle imprese sul blocco dei licenziamenti, faccio forse un parallelo improprio, nel senso che se tu crei un tappo e poi stappi la bottiglia tutto in una volta, rischi di avere 9 milioni di cartelle che arrivano contemporaneamente. Allora qui si sta ragionando su almeno avere una gradualità, nel senso che, voglio dire, immaginiamo anche che si vada al 30 novembre, e cioè che vi sia un rinvio bis, quello che è passato prima dal 1 settembre al 15 ottobre, si va dal 15 ottobre al 30 novembre, poi però il primo di dicembre cosa fanno? Partono 9 milioni di cartelle esattoriali? È evidente che bisogna scongiurare questo rischio, ma anche dalle parti di agenzie entrate di riscossione, cioè sarebbe Ex Equitalia, si sta ragionando come attuare questo processo con gradualità. Probabilmente vanno individuate delle priorità di notifica, magari su importi più elevati, su contribuenti che magari sono ritenuti già segnalati come più a rischio, perché magari sono già debitori. Quindi bisogna in qualche modo fare attenzione per evitare che appunto dall'oggi al domani 9 milioni di cartelle, che poi se si sposta al 30 novembre non saranno 9 ma saranno ancora di più, esatto. si abbattano su contribuenti, su imprese, su professionisti, che è evidente poi avrebbero difficoltà a dover in qualche modo o a saldare il debito, o anche in qualche modo a trovare le contromosse per potersi anche eventualmente difendere qualora la pretesa erariale non fosse giustificata. Ora qui secondo me c'è un tema che riguarda anche per esempio l'anticipo IVA, no? Perché si è detto, il saldo, scusatemi, abbiamo fatto questo ragionamento sul saldo dell'IVA dell'anno precedente, perché da un lato è vero che tu come partita IVA sapevi ben prima del Covid che, avendo fatturato poniamo 100 l'anno scorso, avresti dovuto versare l'IVA mancante, quella non data in anticipo, allo Stato, poniamo che fosse 10, giusto per semplificare. Molti ascoltatori mi hanno scritto, però attenzione, io lo sapevo e avevo già messo i soldi da parte, se però l'attività si blocca marzo, aprile, maggio e anche giugno non riparte un granché, quei soldi spesso mi sono serviti, pur sapendo di doverli dare allo Stato, cioè non è una sorpresa, e mi sono serviti magari per mandare avanti l'attività, in alcuni casi anche per anticipare la cassa integrazione, visto il ritardo dell'INPS nell'erogare la cassa integrazione. Ecco, vorrei capire se anche in questo caso, perché alcuni mi dicono, guardi, andrebbe spostato direttamente al 2021, perché se io ho perso il lavoro o non sto fatturando, non sto incassando, sapevo benissimo di avere le cartelle esattoriali e sapevo di dover fornire al fisco questi soldi, immaginavo di farlo però attraverso gli incassi, se non ho incassato pur sapendo quello che doveva il fisco, non riesco a darglielo. Mi sembra un ragionamento simile a quello che è stato quello sull'IVA da versare per l'anno pregresso. Assolutamente sì, cioè c'è un problema legato alla liquidità. Forse anche i tanti bonus, i tanti crediti d'imposta con la possibilità di fare delle compensazioni potrebbero aiutare, ma su questo bisogna essere un po' più flessibili, perché se uno ha diritto a un credito d'imposta poi bisogna anche consentirgli di poterlo utilizzare su, su quelle che sono le partite insomma a debito che ha con il lato del fisco. È evidente che sulle cartelle ancora da notificare e che dovranno arrivare ci sono possibilità in qualche modo almeno di dilazionare il debito, cioè c'è la possibilità appunto di chiedere delle rateazioni che, ricordiamo, nei casi di maggiore difficoltà possono anche arrivare a 10 anni, però forse è anche arrivato il momento, vista la situazione che stiamo vivendo, per ragionare su quei su quegli indici che consentono una dilazione lunga, perché insomma ormai risalgono a qualche anno fa, a una situazione che è ampiamente pre-Covid. Il Covid ha cambiato il mondo economico e, se permetti, anche il mondo fiscale. Sì, appunto, è talmente, come dicono gli inglesi, disruptive, cioè che cambia lo scenario, rompe ogni paradigma la situazione che si è creata. Lo dico perché altri ascoltatori mi dicono: mi scusi, ma se lei ha un debito con il fisco deve pagarlo, l'ho appena detto, non ho detto che non devo pagarlo. E uno sapeva di avere un debito, probabilmente magari era già arrivata una cartella o c'era già una contestazione in corso, e in una situazione normale avrebbe dovuto, e se non l'avesse fatto, cavoli suoi, mettere da parte dei soldi per pagare il debito che aveva con il fisco, un po' appunto come l'IVA che non hai ancora versato sulle fatturazioni dell'anno prima. Il problema è che nessuno poteva immaginare che la partita IVA o il soggetto non fatturasse, non incassasse per 4 mesi, o incassasse pochissimo anche nei mesi successivi. Cioè, questo è il problema, non si era mai verificata una cosa del genere. Ecco perché bisognerà tener conto delle esigenze dello Stato, ma anche evitare appunto che si crei un ulteriore problema di liquidità con tutti gli sforzi fatti, in alcuni casi buon fine, in altri no, per dare un po' più di liquidità. Penso ai prestiti fino a 30.000 euro, penso al 20% fondo perduto rispetto al crollo del fatturato d'aprile 2020 su aprile 2019. Grazie anche a Massimiliano Parente, a Giovanni Parente, scusami, per questo aggiornamento. Vedremo se si arriverà al 30 novembre, poi quali saranno i criteri seguiti dall'Agenzia delle Entrate sulla priorità della riscossione. Devo dare solo un ultimo aggiornamento che riguarda il mondo dell'auto e delle immatricolazioni. Anche qui solo il tempo ci dirà se è stato un recupero, visto che i concessionari erano chiusi per mesi, o se invece è un'inversione di tendenza. Però c'è un recupero nel mercato dell'auto nel mese di agosto, le immatricolazioni sono state 88.000, un calo dello 0,40% appena rispetto all'anno scorso, mentre da inizio anno sono state vendute il 39% di vetture in meno, pari a un totale di 809.000 vetture. Il gruppo Fiat Chrysler nel mese di agosto ha fatto meno 2,6%, quindi peggio della media, diciamo, del mercato auto, immatricolando appunto 20.000 autovetture. Da inizio anno la flessione è del 40,1%, anche in questo caso di 3 punti peggiore rispetto alla media del mercato auto complessivo in Italia. Noi ci risentiamo domani. Intanto, da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata.